sabíamos que tu intervención iba a ser muy, muy buena. Bueno, son la 1:30. Yo lo que propongo es quizá una ronda de preguntas, comentarios, antes de devolverle la palabra a Silvia, porque si no, ya no va a poder intervenir el público y no, esa no es nuestra intención, ¿no? Entonces, tomaremos no muchas preguntas o intervenciones, pero sí algunas, los que quieran intervenir, las que quieran intervenir. Preguntas cortas para que muchos podamos hablar, dice Silvia. La compañera, les pedimos que se presenten también, por favor. No sé si hay otro micrófono. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todas, a todos. Estoy muy contenta, estoy apabullada con lo que acabo de oír de la ponente y la compañera también, Mercedes. Yo soy Mónica Hernández Abascal, soy secretaria de Mujeres de Morena en Tlalpan, y sí tenemos un proyecto, o por lo menos la idea de, a través de Morena, impulsar la remuneración al trabajo en el hogar, y por eso estoy aquí, para enriquecer este proyecto. Un grupo de mujeres de Morena estamos trabajando en esto, y entonces, bueno, me gustaría ponerme en contacto con gente que pueda ayudarme a enriquecerlo. Gracias. Muchas gracias. Yo leí el libro de Calibán y la Bruja hace unos años, y en realidad tengo dudas acerca de cómo podríamos leer históricamente el proceso del acercamiento de lo común y cómo este proceso, digamos, de larga duración, podría encontrar en este momento la forma de, digamos, de otra perspectiva, de romper los acercamientos de lo común. Y no solo, digamos, en el aspecto de lo femenino, que me parece un aspecto importante, y de las relaciones sexogenéricas, sino como de los espacios habitados, por ejemplo, y también de las relaciones sociales. Entonces, a mí me parece que es algo que me gustaría que se profundizara, porque yo pienso que ha habido algunas como flashes a lo largo del siglo XX que permiten suponer que ha habido intentos de lucha por lo común, pero que en algunos momentos, digamos, en las articulaciones de la socialdemocracia, no ha llegado a brillar. En realidad, se tendría que buscar fuera de la socialdemocracia estas luchas por lo común, y me parece que esta historia no está hecha, ¿no? Y que en realidad una parte importante del imaginario de la izquierda, no sé cómo llamarlo, se basa en las luchas dentro de lo institucional, cuando en realidad deberíamos intentar, no sé, ir más allá de ello. Pero la pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo, siendo que, por ejemplo, los acercamientos más importantes que nos enfrentamos ahora son la parte genética, ¿no? De la privatización del ADN humano, por un lado, y el otro de la industria, de la agroindustria, que está privatizando las semillas. O sea, las dos cosas, la reproducción humana y la reproducción material de la comida, ¿cómo hacer un frente común frente a eso? Que me parece que en este momento es lo que más o menos surge. Hola, buenas tardes. Gracias, Silvia, por tu libro. Gracias por iluminarnos tanto sobre el asunto de la producción. La única pregunta, bueno, dos preguntas tengo. ¿Cómo se explicaría, por ejemplo, la aparición de Santa Teresa o Teresa de Ávila en un momento donde justamente está la acumulación originaria, sobre todo si Teresa de Ávila es quien da pie para que las mujeres, se generalice la producción escrita de mujeres? ¿Cómo se explica esto dentro de todo eso como una, podría decir que es una fuerza contracultural, hablando de monjas? Estamos hablando de monjas que están en los conventos. Y segundo, no me acaba de, no sé, tengo una sensación de que todo está explicado desde la heterosexualidad. Supongo, siento que hay falta como incorporar la historia de la disidencia sexual, que por desgracia está muy precariamente escrita todavía, pero sí se sabe, por ejemplo, de la existencia de mujeres lesbianas. Laura Gawin, en un estudio muy importante, lo dice. También, de alguna manera, quienes han estudiado la época han mostrado cómo la disidencia sexual sí es una alternativa. O sea, es decir, lo que quiero decir es que siempre ha existido algo contracultural respecto de estas acumulaciones como las como la hay ahora, ¿no? ¿Cómo se explicaría en todo esto? Por ejemplo, me llama más la atención sobre cómo se explicaría el surgimiento de Teresa de Jesús. Hola, buenas tardes. Silvia, qué gusto conocerte en persona. Y una pregunta solo, en cuanto a estrategias de aniquilamiento, que lo dijiste, pero me gustaría si tienes saber más a detalle, la relación entre el feminicidio que sucede actualmente y la cacería de brujas, si tú hallas que hay determinados elementos que se parecen o que se... Sí, exactamente, de continuidad, ¿cuáles serían o nuevos que aparezcan? Muchas gracias. Bueno, hola Silvia, muchas gracias otra vez. Bueno, yo quisiera preguntarle si lo que ocurre con la acumulación originaria, ¿no? Es decir, de una pérdida de poder de las mujeres, ¿no? Acumulado a cada ciclo del capital, es también extravasable a otros periodos históricos más allá del capital, ¿no? O sea, sabemos que, ¿no? Que en la Grecia clásica las mujeres perdieron mucho su capacidad de poder, ¿no? Igualmente durante la consolidación de la dominación romana en el Mediterráneo también las mujeres perdieron mucho poder, ¿no? Y más bien es muy raro, por ejemplo, o sea, un caso muy raro son los Barullas de Nueva Guinea que estudió Godelier, ¿no? Que era un pueblo pequeño en donde las mujeres tenían muy poco poder, pero por lo general en las lógicas comunitarias las mujeres sí tienen determinados poderes a nivel económico, a nivel espiritual, ¿no? A nivel político, etcétera, ¿no? Entonces, si es posible extravasar esta es su teoría hacia otros periodos históricos que no el capitalista. Aquí desde abajo. Sí, buenas tardes. Yo tenía una pregunta sobre el libro que me parece importante, como que conmociona muchos niveles. Pero hay un punto que a mí me interesa. Yo creo que los varones siempre han tenido un déficit de lectura del feminismo, ¿no? Todos. De derecha, de izquierda, los anarcos, absolutamente todos, ¿no? Yo creo que el feminismo ha hecho muchísimo por el bien común, ¿no? Como bien lo enuncia, y como hay muchas prácticas en los pueblos originarios, ¿no? Actualmente. Pero son las mujeres, ¿no? ¿Y los hombres cuándo? No le toca corresponder, ¿no? Yo sé. Pero es una pregunta que digo, bueno, ya, van como 300 años atrasados, ¿no? Podrían empezar a ver. Acá hay una pregunta para Mercedes que nos mandan del otro salón. Dice así, ¿cómo influyó el feminismo en la institución familiar y en su estructura en los últimos años? Bueno, son muchas preguntas, ¿no? En relación con la estética, ¿cómo abordas tanto tú, Mercedes, como tú, también Silvia, el problema de la estética en el marco de la economía política que nos están presentando? Porque en efecto lo que tenemos es mucha bibliografía, muchos abordajes desde un punto muy cultural o multiculti, en fin, y creo que es muy importante relanzar este planteamiento, porque si Oportunidades está logrando algo ha sido también a través de sus publicidades. Yo creo que ahí hay un meollo estético que hay que abordar también, pero es un planteamiento que me interesaría más bien escuchar de parte de ustedes qué piensan. Yo tengo una última pregunta para Mercedes. Pregunta para Mercedes, preguntita nada más. Tú hablas de este espacio de los cuidados como el lugar donde pueden generarse alternativas al capitalismo. No repito porque tú lo acabas de explicar. Y al final haces una pregunta diciendo, pero ¿será que hace falta un proyecto político o es ahí solamente sin proyecto político un poco más, entiendo, más articulador, ¿no? Que se tiene que avanzar hacia esas alternativas al capitalismo? Mi pregunta es, ¿y qué pasa con el zapatismo? ¿Cómo lees desde ahí el zapatismo? ¿Es ese proyecto político que permite que esas alternativas que se están generando en lo cotidiano, en estas comunidades de mujeres, etcétera, que está estudiando, tengan posibilidad de avanzar más allá, o no respondió nada, es decir, no sirvió para esto que se está generando en las comunidades? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo la ubicas? Bien, Chile. Yo cercherò di essere il più breve possibile. Trattare di essere breve. Non credo che riuscirò a rispondere a tutte le domande. Potrei contestare esattamente a tutte le domande. Quindi cercherò di rispondere in modo un po' schematico, cercando di scegliere i punti che mi sembrano soprattutto rilevanti e quelli che mi preme a cui mi preme di rispondere. Che mi interessa intanto voglio rispondere alle domande che mi ha posto Mercedes, tre in particolare, mi pare, due in particolare. Perché Mercedes mi ha chiesto perché uso sempre il termine lavoro riproduttivo o lavoro domestico invece che lavoro di cuidado, no? Che in inglese sarebbe care work in inglese. E allora c'è una ragione, anzi due ragioni, una ragione multiple. Una prima ragione è che il termine lavoro trabajo de cuidado, care work, lavoro di cura in italiano, cura, che non esiste tanto, lavoro di cura, è un termine che non esisteva per tanti anni. Per esempio, nei dibattiti, se voi guardate alla letteratura del movimento femminista, fino a diciamo la metà degli anni Ottanta, non era un termine usato dentro la letteratura dei discorsi femminista. Si parlava di lavoro domestico o lavoro riproduttivo. Infatti io ho cercato purtroppo non ho avuto la possibilità di andare più a fondo, ma lo farò, di guardare la storia, no? Di rintracciare la storia del concetto di care work. In quale momento, negli anni 80 e 90, il concetto di cuidado sostituisce il concetto di trabajo domestico, no? C'è proprio una sostituzione quasi. E io ho rintracciato alcune circostanze che hanno prodotto. Innanzitutto il concetto di lavoro di cuidado incomincia a diventare più comune, no, dentro il discorso del femminismo che esce dalle varie conferenze, dalle conferenze organizzate dalle Nazioni Unite, e in secondo luogo è un concetto che poi sempre più viene appropriato anche da lavoratrici che fanno lavoro domestico pagato. Perché? Perché parlare di lavoro di cuidado invece di lavoro domestico introduce una dimensione di professionalità, no? E io ho parlato con molte lavoratrici domestiche che fanno il lavoro pagato e loro hanno sottolineato questa esigenza che hanno di dimostrare che il lavoro che fanno appunto non è solamente lavoro materiale, ma è anche un lavoro emotivo, un lavoro che ha tante dimensioni e quindi ha una caratteristica professionale. Ecco, io sono un po' in polemica con questa svolta. solo in polemica con queste svolte, perché io uso, lo uso molto il concetto di tabacco liquidato, lo uso, però lo uso sempre associato anche al concetto di lavoro riproduttivo, piove, nieva, nieva. No, ya fueron. Allora, sí, lo uso, pero con mucha cura. Lo uso este concepto, pero con mucha atención. Perché io sento e credo che molte femministe hanno usato questo concetto, no? Con una volontà di valorizzare soprattutto l'aspetto emotivo, relazionale, immateriale. Ecco, e in questo contesto voglio dire che soprattutto negli anni fine 90, dal 2000 in poi, no? Quando si è sviluppato in certi ambiti marxisti questa teoria del lavoro immateriale, che oggi il lavoro per esempio nelle opere di Negri e Hart, no? C'è questa teoria che ha circolato molto, che oggi il lavoro è sempre più immateriale. Io sono in polemica con questa posizione e per questo mi tengo ancorata al concetto di lavoro riproduttivo, perché infatti io dico che quando si guarda al lavoro riproduttivo, soprattutto al lavoro domestico, si vede molto bene l'inseparabilità, l'inseparabilità del lavoro materiale da quello immateriale. Quando si lava un bambino, è lavoro materiale o immateriale? No? E l'emozione, la relazionalità è parte del processo della riproduzione materiale delle persone. E allora in questo senso io mi preoccupo di non ricadere in una svalutazione del lavoro materiale, no? Perché sì, è anche una tradizione un po' maschile che il lavoro immateriale, la mente, eccetera, no? E oggi si parla di lavoro effettivo, però sempre c'è questo pericolo della svalutazione della materialità e anche questo pericolo di stabilire nuovi dualismi. E io sono contro una posizione dualistica, ma per questo, anche se io mi rendo conto che per certi aspetti, in certe situazioni, il lavoro si può parlare di lavoro di cura, riferendosi a situazioni specifiche. Il discorso, un'altra domanda di Mercedes era come si può quantificare il lavoro riproduttivo, considerando che, questa è una domanda importante, cioè perché dire che le donne riproducono la forza lavoro, no? Come intendere questo concetto quando per esempio tante donne non hanno figli o tante donne vivono sole, no? Non hanno un marito o non lavorano per riprodurre un salariato, no? E questo si rapportava anche a un'altra domanda, cioè è vero che le donne producono forza lavoro, no? Visto che molti lavoratori, molte persone, molti proletari non trovano lavoro, no? Allora in che senso? Allora io direi qui che bisogna pensare al lavoro riproduttivo come un lavoro sociale, no? Cioè il capitale ha creato strutture di riproduzione della forza lavoro che esistono a livello sociale, cioè esiste una fabbrica sociale della forza lavoro, cioè un lavoro socializzato, e che per cui non sono solamente le donne che hanno il marito o la figlia o il figlio che va a lavorare, quelle che producono, no? Ma è un lavoro che si determina a livelli molto più ampi, a livelli sociali. Quindi dobbiamo parlare di una riproduzione sociale in cui tante persone che anche se non producono direttamente, no? In realtà contribuiscono a creare le condizioni di produzione della forza lavoro. E il terzo appunto è la similianza della situazione delle donne in Nigeria, campesine in Messico e in altri paesi, no? Ecco, io non parlerei di marginalità, anche se è un aspetto che sembra molto forte, no? Perché a me sembra, per esempio, che le donne campesine di Chiapas e di tante altre parti del Messico, no, hanno prodotto da anni, e questo è una cosa molto importante, hanno da anni e anni prodotto una buona parte della forza lavoro che viene sfruttata mediante l'immigrazione nelle aree metropolitane. No, si dice sempre negli Stati Uniti, quando si discutono le riforme dell'immigrazione, che se gli immigranti tornassero a casa, il sistema economico degli Stati Uniti si afflosserebbe. No? Allora, queste donne che rimangono al paese, no? Nelle montagne, queste donne che sembrano marginalizzate, queste donne che vivono in povertà, in una maniera con grande povertà, no? In realtà sono una parte centrale della riproduzione della forza lavoro metropolitana. Io credo che sia molto importante sottolinearlo, perché a partire da questo si comprende quale furto, no, di ricchezza è stato compiuto, you know, ai danni delle popolazioni, per esempio del Messico, no? Perché, per esempio, che debito ha il Messico con la Banca Mondiale, con gli Stati Uniti? Quando si pensa a tutto questo lavoro non pagato che le donne hanno fatto e i cui benefici vanno alla classe economica e politica degli Stati Uniti, no? Allora bisogna rivendicare, secondo me, la centralità politicamente, bisogna rivendicare la centralità, no, di queste donne campesine, ignorate, eccetera, eccetera, nel processo di ristrutturazione dell'economia globale, a cominciare dall'economia degli Stati Uniti. Secondo me questo è estremamente importante. E dentro in questa ottica anche vedere il significato che io, infatti, molto importante, mi piacerebbe approfondire con Mercedes questo discorso, che io credo estremamente importante, no? Come la politica, quella che si chiama qui le opportunità, no? In altri paesi dell'America Latina si chiama bolsas familiares, no? E questa è una politica che è non solo dell'America Latina, ma internazionale. Per esempio, in Sudafrica ho visto che nello stesso tempo esattamente le stesse cose che vengono applicate in Bolivia o in Messico, no? E perché? C'è un tentativo, no, non di valorizzare il processo di riproduzione, ma c'è invece un tentativo di inglobare, catturare, incorporare tutta una popolazione di donne che in un modo o nell'altro sono riuscite a costruire dei momenti di autonomia e di alternativa al mercato, invece di incorporarle dentro i rapporti monetari, no? Per cui questa bolsa familiare sono proprio strumenti, se vuoi, di cattura e di controllo per una popolazione che lo Stato ha sentito come sfuggente al suo controllo, non come sfuggente al suo controllo. E quindi è molto importante, perché queste, e ovviamente anche come incentivazione al consumo, ovviamente, no? E qui vorrei citare, e ci sarebbe molto da dire, la politica nefasta del microcredito. La politica nefasta del microcredito, che ha lo stesso obiettivo, che è quella di porre fine a tutta un'economia di sussistenza e a tutta un'esperimentazione con alternative al mercato. E invece, appunto, di usare il denaro, di usare il prestito, il debito, proprio come forma di cattura, tipo specialmente dalle donne, che la classe capitalista ha riconosciuto come soggetti centrali della riproduzione sociale. Non c'è dubbio, no? L'intervento massiccio delle Nazioni Unite dentro la politica femminista per più di due decadi è stata una risposta diretta al fatto che il capitalismo ha riconosciuto questa centralità della donna nel processo di riproduzione e quindi direttamente o indirettamente nel processo di riproduzione stessa. No? Perché oggi poi il capitalismo cerca di costringere le donne a due lavori, no? A essere presenti sia nella produzione che nella riproduzione. Infatti la crisi che le donne vivono oggi è proprio questa, è una vita dove non c'è spazio altro che per il lavoro. È lavoro naturalmente pagato o rimunerato ai termini più bassi e quindi un lavoro che è continuamente accompagnato da alti livelli di ansia, da alti livelli di angoscia e in una situazione di crisi permanente. Ecco, questo è quello che volevo dire. Forse sarebbe meglio che mi interrompessi, Mercede risponde alle sue e poi posso brevemente affrontare le altre domande. Bueno, yo voy a contestar brevemente tu pregunta, sí. Yo creo que es muy importante aclarar que las mujeres marginales en el estado de Chiapas constituyen el 84% de la población. Eso así nos sorprendió muchísimo cuando hicimos la investigación, porque dijimos no vamos a investigar a todas las mujeres porque es demasiado, solamente vamos a estudiar a las más pobres y seleccionamos a las de marginación media, alta y muy alta marginación y son las que suman 86%, ¿sí? ¿Verdad? Es de la población, sí. El 86% de las mujeres, que son la mitad, ¿verdad? Esto, ¿verdad?, nos ayuda a entender que no todas las mujeres están en el proyecto zapatista, ¿verdad? El proyecto zapatista tiene un porcentaje muy reducido comparado con ese 84%, ¿sí? Y que otra cosa importante de decir es que precisamente la disputa de población y de territorio a las comunidades zapatistas ha hecho que haya municipios y comunidades y localidades en donde viven, como ellos dicen, los partidistas y los zapatistas, ¿no? En el mismo espacio. Entonces no es una autonomía que podemos decir territorial, sino es una autonomía política, ¿verdad? En cuanto a que los que se consideran zapatistas son los que están construyendo esa otra alternativa, y que es más difícil, ¿verdad? Porque si fuera un territorio, pues no sé, liberado, por decirlo de alguna manera, sería más fácil esta lucha por la construcción de otro mundo, ¿no? Pero están realmente en contacto directo y conviviendo muchas veces en instituciones semejantes o en la misma institución, por ejemplo en la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo en el comisariado ejidal, ¿verdad? Es tanto para la población zapatista como para la no zapatista en muchas de las comunidades. Entonces esto, ¿verdad?, nos ayuda a entender cómo la diferencia entre zapatistas y no zapatistas, ¿verdad?, es muy importante de entender como una limitación político-ideológica, ¿verdad?, más que como una delimitación física o económica, ¿sí? En lo económico todavía hay relaciones importantes porque los zapatistas no ayudan, no reciben ayudas del gobierno de ninguna manera, ¿verdad? quiero decir entre paréntesis que las ayudas a las mujeres, las ayudas del gobierno, ¿verdad?, están pasando la subordinación de las mujeres, de los hombres, al Estado, ¿sí?, ¿verdad?, y o la están sumando, ¿verdad?, los hombres se sobreponen la subordinación al Estado. Y esto no sucede en las comunidades zapatistas, ¿sí?, con el rechazo a todos los proyectos, ¿sí? Ellas están luchando contra la subordinación hacia los hombres, pero no tienen el peso del Estado en esa lucha, ¿sí?, ¿verdad? Yo creo que esto es muy importante y yo pienso que, a ver, que con todas las fallas, con todos los errores, con todas las críticas que podamos hacer al proyecto zapatista, tenemos que considerar que por lo menos desde las mujeres es el único proyecto que en la práctica está construyendo algo nuevo. No es un discurso, es una realidad que les está costando muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, ¿sí?, pero que es muy importante porque esto les está haciendo fortalecerse también política e ideológicamente, ¿sí? ¿Verdad? Yo creo que tenemos muchas cosas que aprender de ellos. Gracias, Silvia. Le regreso la palabra a Silvia. ¿Quieres contestar la otra? Esta pregunta es un poco larga. ¿Cómo influye el feminismo en la institución familiar y en su estructura en los últimos años? ¿Cómo ha influido el feminismo en la estructura familiar en los últimos años? A ver, yo quiero ser muy honesta en decir que como feministas hemos incidido mínimamente, ¿sí? ¿Verdad? Nosotras estamos también en esa lucha contra todo el sistema capitalista, con la lucha política, ideológica, económica y la guerra misma, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, nuestra incidencia en las comunidades, ¿verdad?, se puede medir, pues no sé qué, en centésimas de milímetros, podríamos decir, ¿verdad? Es decir, hemos logrado cambiar en algunas comunidades el discurso, ¿sí? El discurso feminista se repite, ¿sí? Y les ayuda mucho a sostener la posibilidad, por ejemplo, de, ellas dicen, de reclamar nuestros derechos porque ya los conocemos, ¿sí? Pero a la hora de la práctica, ¿verdad?, vemos que esa lucha por los derechos pues es bastante limitada, porque el poder, ¿verdad?, que de todo el sistema y de toda la tradición encerrada en este sistema, ¿verdad?, tiene realmente muy limitadas y muy cercadas a las mujeres mismas, ¿sí? ¿Verdad? Yo creo que es muy importante pensar que la lucha que estamos iniciando ahora es precisamente contra el cercamiento de la tierra a las comunidades indígenas, luchando las mujeres por el derecho a la propiedad familiar y a la cotitularidad de las tierras, ¿verdad? Este es nuestro planteamiento, pero dentro de toda la problemática que tienen las mujeres y que tenemos las mujeres, esto pues es una reivindicación que apenas nos va a permitir, pues, digamos, lograr más, a ver, que nuestros planteamientos, ¿verdad?, tengan una acogida mayor en la propia población indígena, ¿sí? Pero en realidad cambios ni siquiera con esta propuesta, porque sabemos de antemano que no vamos a lograr echar para atrás la contrarreforma agraria del 94, ¿verdad?, que fue el golpe fundamental a la propiedad colectiva y que es parte del cercamiento del que habla Silvia, ¿verdad?, el cercamiento más importante del neoliberalismo al campesinado ha sido el golpe, la contrarreforma del 94. Ah, zona 4, 5 de mayo, fui bajo el estudio del occidente, fui ahora continuamos la discusión. Si quieren continuar la discusión, podemos seguir afuera, porque sé que muchas personas también tienen que salir. Una domanda riguardava una pregunta tenía que ver con una compañera que preguntaba cómo se puede relacionar a grupos que hacen trabajo organizativo sobre el salario al trabajo doméstico, porque con su grupo se estaba moviendo en esta dirección. Es un largo discurso, pero por ejemplo, ya a partir de América Latina, Venezuela, sé que hay grupos que están haciendo este trabajo. Por ejemplo, un resultado de este trabajo organizativo en Venezuela fue la pensión para trabajadoras domésticas, las que hacen trabajo pagado. Pero también las de la casa. Ovviamente ci si domanda se la pensione, perché non il salario. Comunque è già una cosa molto importante, senz'altro frutto della mobilizzazione, quindi io la inserirei in questo senso. Poi c'è una domanda sopra il cercamento, l'incluso, il cerco, no? Come si dà oggi, nelle zone urbane, quali sono i momenti più importanti? Allora io direi che il concetto di enclosure, privatizzazione, mercantilizzazione, insomma questo processo ormai investe tutti gli ambiti della nostra vita, tocca no? los ámbitos de nuestra cominciando dalla situazione delle donne, pensando per la situazione della maternità, si pensiamo che la maternità stessa oggetto di se volvió un oggetto ci de si mercato, rende conto di no, fino a quale punto il corpo della donna oggi è sul mercato, no? Oggi ci sono molte donne che non solo vendono il loro lavoro, ma devono vendere parte del loro corpo. C'è un mercato dei capelli, c'è un mercato delle uova, c'è un mercato dell'utero, c'è un mercato dei bambini, sia nell'adozione che nella produzione di bambini per l'adozione. Quindi è una cosa veramente... a partire da questa realtà si può dire de come realtà, se può vedere come il mercato non è un'area di libertà, non è un'area di libertà, ma è un'area di rapporti veramente schiavizzanti, no? E sono d'accordo che il controllo genetico sul seme, la produzione è fondamentale, semilla, no? E che l'enclosures, il cercamento continua negli spazi urbani. Per esempio, io non posso parlare per il Messico, ma so che negli Stati Uniti sempre più è difficile avere accesso a non solo alla casa, ma addirittura nelle strade, no? La pavimentazione nello scamino, la carretera, nella banchetta. No? È sempre più difficile avere accesso alla produzione di conoscenza, no? Che non passi per il mercato. E infatti parliamo adesso sempre più di bienes comunes della conoscenza, che necessità di produrre dei comuni della conoscenza, dei beni comuni della conoscenza che non passa per il mercato. E ovviamente reclamo dello spazio, reclamo soprattutto di spazi, rivendicazione di spazi comunitari. Io ho visto anche da molte parti del mondo si sta cercando di distruggere tutti quegli spazi urbani in cui la gente si raccoglie in modo comunitario, per esempio la vendita in strada, con la venta, no? Dall'India alla Bolivia alla Nigeria, no? La vendita in strada, che soprattutto fatta dalle donne, spesso una vendita che ha a che fare con l'economia di sussistenza. Questa vendita ormai viene attaccata, spesso con la giustificazione che non è igienica e che non è bella da vedere, estetica, no? E invece rappresenta un tentativo di controllare, di mercantizzare la vendita e soprattutto di proibire a una popolazione di donne di vivere in comune, non di praticare per esempio rapporti che sono rapporti comuni, che gli danno forza, gli danno forza nei confronti della polizia, non gli danno forza nel senso che compartiscono il lavoro di riproduzione anche di bambini che sono con loro. Bene. Io non so molto della storia di Santa Teresa, l'ho letta ma non l'ho mai investigata, quindi non parlo su questo. Invece direi che nel Calibano e anche non ho potuto allargare come avrei voluto, perché tante cose ho dovuto restringere per poter terminare il libro. Però ho parlato della caccia alle streghe, di come caccia anche a favore della eterosessualità, la caccia alle streghe colpisce la casa, i rapporti, omosessuali, colpisce le donne lesbiche, colpisce che in molti casi, ho scritto specificamente che in molti casi si bruciavano soprattutto gli omosessuali prima di bruciare le streghe, le cosiddette streghe. Infatti in Italia il nome di omosessuale per tanti anni è stato il nome di Finocchio. Finocchio era l'erba, era un vegetale molto profumato che si metteva, si buttava sui roghi quando si bruciavano gli omosessuali in modo da diminuire la puzza di carne bruciata. Quindi c'è tutta questa storia, ma sono contenta che l'ha menzionata, perché è una cosa molto importante. La strategia di femminicidio, del ritorno della caccia alle streghe, è un discorso molto lungo. No, la violenza contro le donne mujeres, e come si rapporta all'avanzare dei rapporti capitalisti. È un discorso molto lungo, lo riassumo in alcuni punti, nel senso che è molto importante vedere che ancora una volta questo attacco, questa violenza contro le donne, la violenza contro si rapporta si relaziona prima di tutto all'attacco, al cercamento della terra, delle foreste, dei comuni. Non posso dire molto di più, però per esempio per l'Africa c'è molte prove, molta evidenza di un rapporto diretto tra l'attacco al sistema comunitario e il processo di spogliazione delle terre con la diffusione di accuse di stregoneria. Cioè è proprio nelle zone che sono destinate a essere commercializzate. È proprio nelle zone dove si vuole distruggere i rapporti di comunità della terra, di proprietà comunitaria della terra, che si verifica il numero maggiore di accuse di stregoneria. No? Questo è un punto. Un altro punto è che questo attacco all'economia di sussistenza delle donne, che le organizzazioni internazionali, gli NGO portano avanti, questa continua svalutazione del lavoro di sussistenza, no, ha un influsso anche, un influsso ideologico e pratico. Per esempio, in molti posti del mondo, in una situazione in cui i mezzi di sostentamento si stanno restringendo in modo drammatico, si perde la terra, si perde il lavoro, bisogna emigrare, no? Si sta verificando anche una specie di alienazione generazionale, perché le nuove generazioni sempre di più lo vedono, gli anziani e le anziane, no? Come persone che non gli possono assicurare alcun livello di sicurezza economica, no? E quindi c'è un dissidio generazionale, no? che molte volte si riflette in attacchi agli anziani e soprattutto agli anziani. Ad esempio, ci sono storie che vengono dall'Africa dove gli anziani dicono che hanno paura che i giovani li ammazzeranno perché non vogliono vendere le vacche, non vogliono vendere gli alberi, perché c'è una generazione di donne e uomini che vedono la ricchezza in un modo completamente diverso dal denaro, che non vedono la sicurezza per il futuro con il denaro. Lo vedono invece nel rapporto, no? Con la naturalezza, con la natura, con gli animali, no? E quindi c'è questa continua insistenza delle organizzazioni internazionali, no? A svalutare i lavori riproduttivi, a svalutare la sussistenza. Gioca un ruolo. Ha un ruolo, e tiene, no? Un papel dentro questa svalutazione generale, che rappresenta il sostrato, a mio avviso, che rappresenta il sostrato della caccia alle nuove persecuzioni. E poi ci sono anche altri fattori, per esempio molti uomini nella crisi del salario, nella crisi della terra, no, usano il corpo delle donne per rapportarsi all'economia mondiale. No? Per esempio con il traffico sessuale, no? Per esempio come in India, per esempio, c'è quelli che chiamano i delitti della dote, no? Uomini che ammazzano la moglie per procurarsi un'altra dote, e con l'altra dote in genere il denaro si comprano i frigideri, la televisione, la macchina, quindi c'è proprio anche queste nuove forme di violenza, sono senz'altro molto legate al fatto di all'estensione del mercato, svalutazione della sussistenza, a queste nuove distanze che si stabiliscono tra le generazioni. Questo secondo me io lo consiglierei come traccia. Questa è la traccia che ho seguito per vedere come mai oggi, come nel passato, si ha in corrispondenza un grosso avanzare dei rapporti capitalistici, un grosso avanzare anche della violenza contro le donne. La violenza contro la donna. Poi c'era una domanda che riguardava, diciamo, la storia del patriarcato. La storia, sì, del patriarcato. Io non affermo assolutamente che il capitalismo è il primo sistema sociale che in un certo senso degrada le donne. Mi oppongo però a quelle posizioni che dicono che la degradazione delle donne è un fatto universale. Se oggi un grande lavoro antropologico fatto da femministe, fatto da donne, che ha scoperto che in tante comunità, per esempio in molte comunità indigene dell'America e del Canada, le donne avevano una posizione importante. E io nel grande Caliban e la Bruja ho infatti parlato e descritto, no, alcuni processi di sottomissione di donne indigene, no, per esempio in certe popolazioni indigene del Canada, che sono state sottomesse con un lungo processo perché avevano un grosso potere e autorità. Infatti, nelle comunità native, negli indiani d'America, nei nativi d'America, nazioni, le donne hanno avuto tradizionalmente un grosso ruolo. Cosa vuol dire? In molte epoche c'è stata una degradazione delle donne, perché a mio avviso un elemento comune è in ogni sistema En cada sistema, fondato sullo sfruttamento del lavoro, sobre la explotación del trabajo, la classe dominatrice ha dovuto appropriarsi del corpo delle donne. Quindi il capitalismo non è il primo sistema che si appropria del corpo delle donne. Sono le forme di questa appropriazione che sono importanti, che sono differenti. Sono i rapporti sociali. Quindi il capitalismo, in un certo senso, ha costruito nuovi rapporti patriarcali. Appropriandosi di strutture patriarcali esistenti, ma anche rifondandole, dandogli nuove fondamenta, dandogli nuove forme e nuove finalità. Infatti io ho parlato, ho detto che con il capitalismo, non è che col capitalismo iniziano i rapporti patriarcali, ma inizia un nuovo tipo di rapporto patriarcale, che io ho chiamato il patriarcato del salario. Il patriarcato del salario, perché la base materiale delle discriminazioni tra uomo e donna sono state in gran parte, non esclusivamente, ma in gran parte costruite a partire dall'uso del salario. E col salario che si è creato, come dicevo prima, un'architettura di divisione. No? Quindi, secondo me, questo è molto importante. Io sto in questo momento elaborando, ma pensando che stiamo entrando in una nuova fase di patriarcato capitalista. È una fase in cui il vecchio modello della donna, il vecchio modello di patriarcato, non funziona più tanto bene. La donna solo in casa, solo domestica, eccetera, eccetera, che ha funzionato fino agli anni 70. Oggi non funziona più, perché le donne hanno rifiutato questo ruolo e il capitalismo si è adeguato e ha cercato di usarlo. Ha cercato di usare questa richiesta delle donne di autonomia proprio con l'intervento delle Nazioni Unite, ha cercato di usarlo per lanciare l'economia neoliberale. E oggi io direi un nuovo patriarcato che vuole le donne, sia donne che uomini. Oggi dobbiamo essere tutte e due, dobbiamo riprodurre la forza lavoro e allo stesso tempo dobbiamo essere presenti anche sul terreno della riproduzione, però a prezzo di esserci presenti come uomini, nel senso che i luoghi di lavoro salariato non sono cambiati, non si sono adattati al fatto che oggi molte donne sono lavoratrici salariate. Non c'è stato un cambiamento dell'orario settimanale, al contrario, oggi si lavora di più, aumenta la disoccupazione, ma nei posti di lavoro salariato si lavora molto più. La settimana lavorativa continua ad andarsi e non lascia spazio per la famiglia, sia per gli uomini che per le donne. Tanto para hombres como para mujeres. No? Pochissimi posti ci sono asili nido, i posti di lavoro, garderie, non stanno garderie, no? Per questo che io parlo di un nuovo tipo di patriarcato, no? Dove la donna viene ammessa a nuovi spazi, però a prezzo di mutarsi in assumere un ruolo mascolino, no? Per cui la primarietà del ruolo mascolino non viene questionata. La primazia dell'ombre non si questiona. Estetica, sull'estetica sarebbe un grande discorso sull'estetica. Io credo che tu voglia dire che il ruolo dell'estetica per le donne, nella sottomissione delle donne, è questo che intendevi dire. E del corpo también. E del corpo delle donne, certo, no? E questo senz'altro è un fatto molto importante, no? Che ha a che fare con appunto questo nuovo impulso alla mercantilizzazione del corpo delle donne, no? Dove ormai le donne vivono l'obbligo alla bellezza, è sempre stato parte del lavoro domestico. L'obbligo alla bellezza è sempre stato parte della disciplina sociale delle donne, no? sempre che è stata una grande causa di autoalienazione, no? Perché tutte le donne si guardano e tutte le donne si trovano brutte, perché ci sono questi modelli che sono irraggiungibili, no? E quindi c'è questo continuo processo che tutte le donne conoscono, la tortura delle diete, la tortura del cambiare il proprio corpo per approssimarsi a questi modelli di bellezza irraggiungibili, no? E quindi questo autosvalutazione che tutte conosciamo, e contro cui abbiamo lottato, no? Nel movimento femminista degli anni 70 eravamo molto orgogliosi, no? Di avere un corpo indisciplinato, di non voler essere belli, no? È stato un obiettivo non voler essere belli, non voler farci belle per gli uomini, no? Però una grande risposta in questi anni è stata proprio questa, no? Che l'ingresso delle donne nel mondo pubblico, tra virgolette, nel mondo del mercato, è stata accompagnata da una nuova campagna ideologica, no? Pensando che poi le donne adesso hanno un po' di soldi loro, una grande campagna ideologica, che è una campagna volta a costringere le donne a consumare quello che guadagnano, ma anche a sottometterle nuovamente, no? A questo tipo di disciplina, più tradizionale, más tradicional. Molte grazie. Muchas gracias. Bien, yo creo que damos por concluida la sesión. Les recordamos que Silvia está aquí con nosotros toda la semana y que hay una serie de seminarios que iniciamos mañana. Más puntuales, con algunas temáticas, digamos, para discutir más a profundidad todo esto. Y nuevamente yo les recuerdo que este es parte del proyecto Modernidades Alternativas y Nuevo Sentido Común, un proyecto que estamos desarrollando hace 3 años, y le agradezco mucho a Lucía Linsalata el contacto y la posibilidad de tener aquí a Silvia, porque si bien es cierto que su trabajo es bien conocido en otras latitudes, creo que su traducción al español es más o menos reciente y la discusión que estamos teniendo sobre la temática también. Digamos, en México sí hubo una discusión muy importante en los 70 sobre el trabajo doméstico y el trabajo asalariado del trabajo doméstico, pero lo que hace Silvia es una revisión, digamos, de lo que entendemos hoy por acumulación originaria y los límites del capitalismo en relación a esto, ¿no? Entonces, relanzar esta discusión pues nos hace muy felices de poder tener directamente aquí a la autora y durante tantos días. Entonces, están todos convocados. Todo lo demás va a ser en la Facultad de Ciencias Políticas, en el posgrado de esa facultad. Gracias. Muchas gracias.